Amiche, cari amici, Maridì ai microfoni, bentrovati, bentrovate a Bruxellando, Radio Alma. Sono particolarmente contenta, questa è la prima puntata della settima edizione di Bruxellando. L'equipe resta invariata, anche se questa sera in dimensione ridotta, perché questo è un po' un assaggio, un aspettando Bruxellando, già che la stagione radiofonica comincerà il 22 ottobre. Però stasera avevamo tante novità, tante cose belle in programma per l'agenda culturale e per noi italiani di Bruxelles. Ne approfitto quindi per salutare in regia Dani M. E Buona serata a tutti. vorrei salutare anche tutti coloro i quali nelle scorse 24 ore mi hanno inviato tantissime mail, le hanno inviate a bruxellando@gmail.com. Vi risponderò nei prossimi giorni. Questa è, come sapete, una promessa. Poiché la puntata è ricchissima, non mi dilungo oltre, quindi passerei già al primo ospite della serata e credetemi, sono particolarmente emozionata perché ho il piacere di intervistare Franco Latorre. Franco, Buonasera, buonasera. benvenuto a Radio Alma e Bruxellando. Franco si è occupato di informazione e comunicazione dalla fine degli anni 80, quindi insomma, Dalla fine degli anni 70. 70, ecco, vedi, quindi ancora un po' prima. Poi abbiamo scoperto di avere un elemento in comune che è la cooperazione allo sviluppo, quindi insomma, qualcosa che ci unisce c'è. E tra il 1991 e il 1992 ha coordinato da Gerusalemme le ONG del COCIS. Dal 1995 al 2005 è stato responsabile delle attività internazionali di ECOMED, l'Agenzia per lo sviluppo sostenibile nel Mediterraneo di Roma. Ha ricoperto inoltre l'incarico di organizzare e coordinare i progetti di Roma per la pace a Gerusalemme, iniziativa del Comune di Roma per il rilancio del processo di pace in Medio Oriente, e dal 2005 al 2008 ha lavorato presso l'Ufficio Relazioni Internazionali del Gabinetto del Sindaco di Roma. Dal 2009 invece coordinatore dell'area di ricerca e sviluppo di risorse per Roma Spa. Franco, noi siamo felicissimi di averti qui con noi in studio perché questa sera ci parli della tua ultima fatica letteraria. Beh, la prima e l'ultima possiamo dire, non è detto che ce ne sarà una seconda, adesso poi. Insomma, comunque, partiamo così in maniera di buon auspicio, che è Grazie a Dio è venerdì. E probabilmente molti di voi avranno già capito, è un libro che è stato pubblicato nel 2001 dalla casa editrice Iacobelli, e che narra, 2011. 2011, sì, che narra di un conflitto lungo e sicuro di non facile comprensione. Ah, pensavo che fosse un libro sulle discoteche. Perché no? Potrebbe essere pure una valida alternativa nel mondo, soprattutto giovanile, che ama divertirsi, uscire di notte. Poteva essere, no? Che è per appunto il conflitto israelo-palestinese. E quando si parla di Israele, di Palestina e del loro rapporto conflittuale, gli eventi storici in genere finiscono per mescolarsi e confondersi nelle interpretazioni politiche dei fatti. Tu sei stato a Gerusalemme per un lungo arco di tempo, quindi immagino che conoscerai questa città veramente benissimo. Partirei quindi dal titolo: Perché grazie a Dio è venerdì? Ma scusate, beh, il titolo nasce sul luogo. Nasce un giorno a Gerusalemme, stavo prendendo le consegne dal coordinatore di quel gruppo di organizzazioni non governative italiane a cui davo il cambio. E, in questi casi, come immagino possiate capire, si parla un po' di tutto, dalle cose direttamente legate all'attività lavorativa, a poi, diciamo, agli usi e le abitudini del posto dove stai per andare a vivere. Parliamo dell'inizio del 1991, mi sarei fermato a Gerusalemme più o meno continuativamente fino alla fine del 1992, cioè 2 anni. E stavo sfogliando un calendario che stava sulla scrivania ed è un bel calendario perché è di quelli che racchiudeva tutte le festività religiose. A Gerusalemme incidono la religione ebraica, la religione cristiana di rito romano, quella che noi chiamiamo cattolica, e la religione ortodossa. E quindi sfogliando ho fatto una battuta a Bruno, il coordinatore al quale avrei dato il cambio. Ho detto: Bruno, quindi qui il venerdì i musulmani non lavorano, il sabato non lavorano gli ebrei e la domenica non lavorano i cristiani, quindi va a finire che grazie a Dio il venerdì, perché comincia un lungo fine settimana. La sua risposta è stata: no, Franco, è l'opposto, va a finire che si lavora 7 giorni su 7. Quindi per 20 anni, mi sembra di capire, passando da un'esperienza all'altra, hai vissuto in prima persona il problema della cooperazione internazionale riguardo al conflitto arabo-israeliano. Quindi che cosa ti ha spinto adesso a fermarti e raccogliere i ricordi e la memoria di queste esperienze? Beh, un momento sfortunato, ovvero nel 2009 ho avuto una pausa professionale. Il lavoro che avevo fatto sino all'anno scorso, come racconto anche nel libro, improvvisamente è sparito. Il sindaco che aveva vinto le elezioni a Roma nel 2008 decide che non c'era più motivo per cui Roma avesse tutta questa attività internazionale, in particolare nel Mediterraneo, e non si capiva perché ci dovesse essere un'attività specifica a sostegno del processo di pace, come un fido collaboratore dello stesso sindaco, un senatore dell'epoca, scrisse su un autorevole quotidiano nazionale: e se questo La Torre non è riuscito a fare la pace agli israeliani e palestinesi, che ce lo teniamo a fare? E allora ho avuto un anno di tempo per rimettere a posto nella memoria. È stata un'esperienza straordinaria, lo dico da neofita, questo è il mio primo libro, non so quanto sia così per tutti quei, diciamo, scrittori veri, che quando scrivi ti ritornano dei ricordi che pensavi di non avere. È stata un'esperienza davvero, da questo punto di vista, ricchissima, perché ho ricostruito un pezzo della mia vita. In realtà, come ti raccontavo pure prima quando ci siamo incontrati, la particolarità che mi ha colpito proprio di Grazie a Dio e Venerdì è che in realtà non è un saggio, non è un romanzo, perché sei stato in grado veramente di raccogliere aneddoti, ricostruzioni storiche, colloqui, sondaggi, estratti d'archivio, che da un lato riguardano i due popoli, quindi quello palestinese e quello israeliano, però racconti anche la storia di tanti giornalisti, artisti, scrittori, associazioni e del lavoro che svolgono tutti i giorni proprio per, come ponte tra queste due differenti lingue e culture che per l'appunto dividono i palestinesi e gli israeliani. E allora sono veramente curiosa di sapere questa tua scelta, l'hai pensata oppure è nata strada facendo mentre scrivevi, mentre, come dicevi prima, riordinavi i ricordi? Ma come dico nel sottotitolo, questi sono 20 anni di sguardi su Gerusalemme e dintorni. Io non avrei mai potuto scrivere un libro diverso da questo. Non ho le capacità non ho le capacità di scrivere un saggio sul conflitto israelo-palestinese che aggiunga qualcosa a quelli già scritti da persone che conoscono questo conflitto, diciamo, molto più approfonditamente di me. Io non potevo fare altro che vivere i miei 20 anni di sguardi tra Gerusalemme e dintorni, per cui è la storia mia, io come sono cresciuto dentro quel conflitto, come me ne sono abbeverato, mi ha nutrito quel conflitto per 20 anni, e la storia di straordinari rapporti personali che ho intessuto. Molti di questi sopravvivono a distanza di 20 anni, per dire quanto per me sono stati importanti, spero che lo siano anche per le persone alle quali mi sento ancora molto legato, le impressioni che ho ricavato. E poi io lì non è che stavo a fare il turista, facevo un lavoro, e quel lavoro lì mi portava ad approfondire alcuni aspetti, mi portava a documentarmi su alcune questioni che ritenevo rilevanti. Quando facevo attività strettamente di cooperazione, dovevo per forza leggere i rapporti della Banca Mondiale sullo stato dell'economia palestinese, piuttosto che quelli dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi sulle loro condizioni di vita nei campi profughi, così come quando dalla cooperazione a sostegno della popolazione palestinese colpita dalla prima intifada sono passato a quella che si chiama in gergo la diplomazia dal basso, cioè agita da quei soggetti che non hanno uno status diplomatico vero e proprio, in questo caso diciamo le città, le amministrazioni locali, ma è una parte non secondaria di quel lavoro che si fa per tessere le relazioni tra le parti in conflitto. E ho cominciato a occuparmi nello specifico di tutto quel mondo, che è un mondo all'epoca, parliamo appunto della fine degli anni 90, la seconda metà, subito dopo diciamo, l'avvio del processo di pace, ricchissimo e di, come dire, molto coinvolgente. Oggi è tutta un'altra storia. Qual è secondo te la cosa più importante quindi che hai imparato in Israele e Palestina? A non credere alla prima impressione, a non leggere la realtà da punto di vista di un pregiudizio, anche nel senso buono del termine, anche se pregiudizio di per sé non ha un senso buono, diciamo da un'idea preconcetta, e che stiamo parlando di una cosa di difficile comprensione. E l'ultima cosa che ho imparato è che in un conflitto non c'è bisogno di un altro nemico, cioè schierarsi da una parte o dall'altra contribuisce soltanto a aumentare gli elementi di conflittualità e quindi poi ti mette sulle spalle una croce che inconsapevolmente forse era meglio che non portassi, perché già c'hanno i loro problemi, se ci aggiungi pure i tuoi è una cattiveria proprio gratuita. Infatti, e a proposito, David Grossman, che è anche una delle personalità che ha influenzato la tua scrittura, sostiene che il 99% dei problemi tra gli israeliani e i palestinesi non è territoriale o politico, ma emotivo. E questa definizione mi ha molto colpito, perché in genere ci insegnano che gran parte dei conflitti hanno ragioni economiche e che con essi ci hanno tramandato anche possibili soluzioni. Allora, secondo te, quale può essere la soluzione per un conflitto che invece è emotivo? Quello che io capisco delle parole di David Grossman, che ho avuto diciamo, il piacere di conoscere e col quale ho avuto il piacere di lavorare per un po' di tempo, è che tolte tutte quelle sante ragioni di cui tu parli, di carattere economico piuttosto che politico, quando il conflitto interessa direttamente due popoli, perché nel caso del conflitto israelo-palestinese ovviamente è un conflitto agito innanzitutto dalle leadership di quei paesi, o non di quei paesi, di quei due popoli, perché uno c'è il paese e l'altro non ce l'ha, e poi di tutti quelli che ci girano attorno con intenzioni sciacallesche piuttosto che parassite, le piccole e le grandi potenze dell'area e le piccole e grandi potenze del resto del mondo. In questo caso ci sono anche due popoli che vivono a stretto contatto. I francesi e i tedeschi, quando si sono fatti le guerre, non vivevano accanto nello stesso a Parigi c'erano i francesi, a Berlino c'erano i tedeschi. Noi abbiamo in un nocciolino di terra due popoli che hanno vissuto insieme per millenni fino alla nascita di Gesù Cristo, e poi da quel momento in poi hanno cominciato a guardarsi in cagnesco per motivi religiosi, però hanno continuato a vivere accanto, e solo con gli eventi recenti del secolo scorso si sono distinti dal punto di vista nazionale, ma prima non c'era neanche questo, e quindi la componente emotiva è ancora molto presente. Aver fiducia o non aver fiducia nell'altro, che ha un nome e un cognome, non è il palestinese, l'israeliano, è Tamar, è Ali, cioè sono persone che tu conosci, sono persone con le quali hai lavorato, e quindi questo aspetto più relativo alla parte più profonda del carattere umano, l'emotività emerge. E a proposito quindi di quello che dicevamo prima, proprio della possibilità di poter nominare l'israeliano e il palestinese, c'è un passaggio che mi ha particolarmente colpito e che si trova proprio tra le prime pagine, in cui tu scrivi che Gerusalemme in questi anni ha rappresentato la geografia della paura. È un'espressione coraggiosa, trovo, veramente dà una fotografia precisa di quella realtà e mi ha colpito proprio tanto. Quindi mi chiedevo, che cosa ti ha portato a trarre questa conclusione? Devo essere sincero, questo termine, questa formulazione non è mia. L'ho letta, adesso non mi ricordo la fonte, ed è un male perché bisognerebbe uno citare le fonti, ma ha preso una frase in un contesto diverso, non si applicava al conflitto israelo-palestinese, non si applicava al conflitto in generale, penso che fosse un libro che parlava di psicanalisi. Perché nel momento in cui lo leggevo ho detto, ma questa qui è Gerusalemme, perché in effetti Gerusalemme, per chi ha avuto la fortuna di conoscerla, è un luogo che disgraziatamente simboleggia anche questo, la geografia della paura, una città divisa in due senza però dei confini, perché le due comunità la vivono separatamente, non amano andare nei luoghi degli altri perché non si sentono sicuri. È cosa, diciamo, che in una città generalmente non succede. Certo, le grandi città hanno quei luoghi di geografia della paura, come possono essere le periferie degradate, ma sono un altro rispetto al centro. Lì invece questa geografia della paura attraversa la città in tutte le sue parti. Eh sì, in effetti poi spiegare anche lo stesso conflitto a volte è veramente impossibile, perché sono tante le cose che si sono succedute negli anni. A proposito, quindi, torniamo ancora alle persone che sono le vere protagoniste di questo tuo reportage. Citi più spesso sia David Grossman che Edward Said, e sono tanti poi i personaggi e gli interpreti che tu citi proprio all'inizio del libro: Andrea Messori, Meir Nizan, Noah, Alex Pollock, così nominate il caso, sono davvero tanti, Aldo Talotto, Len Traubman. Donaldo Talotto era il direttore del Notre Dame di Gerusalemme, questo grande albergo, perché ha quelle caratteristiche, costruito all'inizio del secolo scorso per ospitare i pellegrini cattolici. Donaldo veniva da 20 anni passati nel deserto giordano con i beduini e viene nominato dal Vaticano direttore di questa struttura di accoglienza, che dirige per 4 anni, essendo responsabile, tra virgolette, di una catastrofe economica, perché lui fu quello che preparò il Notre Dame in vista del giubileo dell'anno 2000, un importantissimo appuntamento per la comunità cattolica, che avrebbe visto tra l'altro molto probabilmente il Papa recarsi a Gerusalemme. La disgrazia volle che nel settembre del 2000 cominciò la seconda intifada e quindi ci fu un crollo delle presenze, gli investimenti di alcuni milioni di euro fatti sul Notre Dame si rivelarono improduttivi, ma non per questo lui dopo 2 anni, 3 anni fu chiamato a dirigere il Santa Marta, il luogo dove si riuniscono in conclave, dove vanno a dormire poi coloro che eleggono il Papa. Beh, a proposito di conclave, poi insomma quest'anno è stato estremamente interessante seguire anche quei momenti. Allora, una curiosità che riguarda nuovamente il tuo libro. Ma questo libro è stato scritto e pensato per un lettore italiano, oppure pensi possa essere letto anche da un israeliano e un palestinese? Ma guarda, io mi accontenterei anche di un lettore italiano. Se lo leggesse un lettore italiano, già diciamo che l'obiettivo lo avrei raggiunto. Credo che potrebbe, sì, benissimo essere letto da un israeliano piuttosto che da un palestinese, in quanto traspare un profondo trasporto. Torno a dire, lo dico chiaramente quali sono le mie preferenze: io sto dalla parte degli oppressi, dalla parte dei deboli, e in quel conflitto, come in tutti i conflitti, c'è uno più debole e uno più forte. In quel caso i palestinesi sono il soggetto più debole e io, diciamo, ho un'empatia verso di loro, però allo stesso tempo non ce l'ho con il popolo israeliano. Come dicevo prima, i conflitti sono determinati non certo dalle scelte tue o mie, no? Gente che non contiamo niente. Con tutto il rispetto, io sì, non conto niente, ma dalle loro leadership. Poi quelle responsabilità ricascano sulle spalle invece delle cittadine e dei cittadini che devono misurare quotidianamente con quel conflitto lì. Questo non è per giustificarmi, non voglio neanche spacciare questo libro per un esercizio di equilibrismo, non lo è, non lo è, lo dico chiaramente quello che penso nel corso di queste 200 circa pagine del libro, penso che potrebbero leggerlo, poi il giudizio che esprimerebbero, questo non sono in grado di anticiparlo. Edward Said, lo cito spesso perché è uno di quelli che mi ha insegnato molto a liberarmi di quel pregiudizio. Edward Said è un grande intellettuale palestinese trapiantato negli Stati Uniti, emerito professore universitario, che è morto prematuramente a poco più di 50 anni, che ha scritto un grandissimo libro che tutti noi che ci siamo nutriti della cultura occidentale, che ritiene di essere superiore a tutte le altre, dovrebbero leggere, che è Orientalismo. Il succo è questo: voi occidentali venite dalle nostre parti e ci disegnate con gli occhi vostri, e noi non ci siamo mai in quel disegno. Allora posso farti una domanda anche sulla copertina del libro, perché la copertina riporta probabilmente un ragazzo che e di spalle con una chitarra in mano e sembra camminare, quindi che il suo viaggio continui. Fai riferimento a questo, a quello che avevi appena detto, quella copertina, oppure invece è casuale? No, tutte e due. Intanto questa è una rielaborazione di una foto che faceva parte di una mostra, Occhi di Gerusalemme. Quattro fotografi israeliani e quattro fotografi palestinesi, molto bravi. Professionisti per le più grandi agenzie fotografiche del mondo, che realizzammo all'inizio tra quei piccoli progetti che sostenevamo di dialogo tra israeliani e palestinesi, una mostra che organizzammo a Roma. E questa fu una di quelle foto che riassumeva meglio, perché ho dimenticato di citare alcune particolarità di questa foto. Sì, è un ragazzo di spalle che cammina con una chitarra, c'ha però la chitarra è avvolta in una bandiera israeliana, in testa c'è una kippah e attorno al collo invece ha una kefia palestinese, per cui da questo punto di vista aveva, diciamo, un doppio messaggio: da una parte chi prosegue un cammino sapendo di avere la vita davanti, perché è un giovane, ce n'è ancora parecchia di strada da fare, e io spero che questo ragazzo riesca a vedere la fine di questo conflitto, ma riassumeva in sé, diciamo, quella natura conflittuale da una parte e dall'altra emotiva, come pure racconta, scrive David Grossman, l'ho messo, se non mi ricordo male, all'inizio, come le volpi del racconto biblico di Sansone, scrive Grossman, legate per la coda a un'unica torcia in fiamme, così noi e i palestinesi ci trasciniamo l'un l'altro malgrado la disparità delle nostre forze, e anche quando tentiamo di staccarci non facciamo che attizzare il fuoco di chi è legato a noi, il nostro doppio, la nostra tragedia e il fuoco che brucia noi stessi. Sai, il tema di Brussellando, da quando è nato, è il tema del viaggio. Allora vorrei chiederti, come è cambiata la tua relazione con l'Italia da quando sei rientrato da questo tuo viaggio in Medio Oriente? Ma ti devo confessare una cosa nota. Io non pensavo di tornare in Italia. Pensavo che quell'esperienza mi avesse, diciamo, proiettato ormai al di là dei confini italiani, perché furono 2 anni, quelli trascorsi a Gerusalemme, straordinari. Parlo dell'inizio della storia. Perché poi nei 18 anni seguenti io non ho mai poi vissuto per lunghi periodi a Gerusalemme, sì, una settimana, due in giro per i territori occupati palestinesi piuttosto che per Israele, di frequente 4, 5, 6, 7 volte l'anno, però mai più un periodo così lungo. Alla fine invece di quei 2 anni, alla fine del 92, io pensavo che non sarei più tornato in Italia. Ma non perché l'Italia la sentissi stretta o perché non mi piacesse, ma perché, diciamo, volevo continuare questo percorso di globalizzazione dei sentimenti, delle passioni e degli interessi. Bello. E invece poi sono tornato in Italia e va benissimo pure così. Ho messo su famiglia, Ho una splendida moglie, una figlia straordinaria, anche se ha 17 anni, come tutti coloro che hanno avuto figli di questa età sanno che sia, insomma, non è facile, È però è l'età bellissimo. di svolta, diciamo. Parliamo del presente, quindi, di cosa ti occupi adesso? Adesso continuo a occuparmi di cooperazione territoriale, per quanto riguarda i progetti di interesse di Roma Capitale. E sono qui a Bruxelles anche per questo, per partecipare agli Open Days, che è questo grande appuntamento annuale in cui si incontrano gli enti territoriali, cioè le regioni, i comuni, e si scambiano esperienze. Mi occupo di pianificazione strategica, sempre Risorse per Roma, che è la società di Roma Capitale che si occupa appunto del piano regolatore e dell'agenda urbana. E poi la mia passione, diciamo, sociale, politica, mi vede impegnato sul fronte antimafia, sono nell'ufficio di presidenza di Libera, l'associazione di numeri e nomi contro le mafie, e sono il presidente di FLER, che è la rete internazionale promossa da Libera, che raggruppa una quarantina di organizzazioni sparse per l'Europa e oltre l'Europa. Insomma, complimenti anche per queste altre attività collaterali. E nel futuro allora tornerai a Gerusalemme? Ma veramente ci sono appena stato. Quest'estate, ad agosto, sono tornato dopo 4 anni con mia moglie, mia figlia, che aveva avuto modo di attraversare quella terra quando stava nel grembo di mia moglie, perché con mia moglie ci andai nel 1996, l'anno in cui è nata Marta, e infatti è tra i personaggi e interpreti di questo libro, insieme a mia moglie, ovviamente. Anche se diciamo per interposta persona, coi cugini e con i loro figli, i nipoti, abbiamo fatto un viaggio molto bello, molto impegnativo, molto complicato, perché la libertà di movimento non è più quella degli anni 90, dove volendo, nonostante il conflitto, però potevi andare su e giù liberamente per i territori occupati palestinesi e per Israele. Adesso non si può più fare con la stessa libertà di un tempo. Ho trovato una situazione particolarmente deteriorata, il clima non è favorevole, si avverte una sfiducia molto profonda da entrambe le parti e ne hanno tutte le ragioni, è un processo di pace che si è arenato e che stende a riprendere, anche se sono in corso dei colloqui riservati, la geopolitica di quell'area sta cambiando giorno dopo giorno, la ripresa delle relazioni tra Stati Uniti e Iran fanno ritenere che potrebbe non essere più come era prima, perché in effetti quello che io ritengo sia il motivo alla base di questo conflitto, cioè il fatto che in quell'area ci sono le riserve strategiche che mandano avanti la nostra economia, cioè l'energia primaria, il petrolio, fa sì che in quell'area debba regnare il conflitto, l'instabilità, Certo. secondo, diciamo, il principio dell'impero romano, divide et impera. Adesso che sembrerebbe che gli Stati Uniti sono autosufficienti dal punto di vista energetico e che abbiano perso un po' di interesse in quell'area, forse le cose potrebbero non essere più come prima, anche per la crisi di quei governi dittatoriali che hanno fatto il bello e il cattivo tempo, il brutto e il cattivo tempo. Assolutamente. Tra l'altro, volevo ricordare a tutti i nostri ascoltatori che domani sera Franco sarà ancora con noi, non qui a Radio Alma Brussellando, ma alla libreria Piola in Rue Franklin 66 alle ore 18:27, quindi vi prego di non arrivare troppo tardi. E ci saranno altre domande, domande anche più politiche, in cui affronteremo anche il problema dell'energetico e del controllo proprio delle risorse energetiche stesse. E ci potranno Franco, essere anche le domande di assolutamente, chi c'è la domanda del ci pubblico, farà il piacere di domande essere presente domani di sera. tutti, sarà anche possibile acquistare direttamente in libreria, grazie a Dio è venerdì, dedito da Iacobelli, quindi salutiamo anche la casa editrice per aver accettato di pubblicare anche Franco. E mi fa piacere anche ricordare Maurizio Ceccato per il suo cover design, che ho trovato estremamente originale. Sì, è una piccola casa editrice che cura molto, molto l'estetica del libro, sì. Sì, è un prodotto molto ben definito, insomma, veramente si fa leggere, ecco, la copertina invita alla lettura. E non solo, poi quando lo leggerete capirete che sono tanti, non solo gli elementi di riflessione, ma proprio c'è l'arte del racconto, c'è l'arte del viaggio, c'è probabilmente la speranza per la risoluzione di questo conflitto che andrebbe veramente effettivamente risolto quanto prima. Ahimè, il tempo in radio è tiranno e il tempo veramente scorre via velocemente. Franco, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi. E io ringrazio voi per l'invito e per la bellissima chiacchierata. E rinnovo quindi l'invito per domani sera, quindi ci ritroveremo a parlare in maniera proprio più approfondita anche del di Grazie a Dio è venerdì, e per tutti i nostri amici all'ascolto quindi rinnovo l'invito a venire presso la libreria Piola domani sera alle 18:27. Franco, ancora grazie, spero a presto. Un saluto a tutti voi. Questo era il brano Show Me the Way dei Maybelline, gruppo italo-belga di Liegi, che presenterà il suo nuovo album. Questa è la canzone di lancio, Show Me the Way, molto molto bella, appunto, che presenterà il suo nuovo album il prossimo 15 novembre al Centro Culturale di Serin, vicino a Liegi. Vi consigliamo veramente di esserci, di non perdere questa occasione unica, e soprattutto di seguire Oreste e Sandrine e tutto il gruppo Maybelline prossimamente, perché ci saranno molte sorprese. Troverete tutte le informazioni sul nostro blog e insomma, mi raccomando, seguiteci come sempre numerosi. Cari amiche e cari amici, bentrovati, eccoci nuovamente a Bruxellando, Maridia ai microfoni, Dani M in regia. Questa sera avremo tempo soltanto per annunciare un evento, perché tra qualche minuto vi proponiamo l'intervista raccolta al regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, che era qui proprio a Bruxelles nel promuovere The Best Offer. Quindi vi ricordiamo che il prossimo 19 ottobre BEIT lancia il primo mini festival di musica indipendente italiana a Bruxelles. Italian Indie Waves, il primo mini festival organizzato da BEIT a Bruxelles, presenterà i tre allegri ragazzi morti, punk, indie rock, reg, i Perturbazione, pop rock e Cosmo, pop rock psichedelico. Ma le onde italiane non saranno soltanto di musica. Al VK Concert, dove avrà luogo proprio la manifestazione, dove avrà luogo il festival, ci saranno anche stand gastronomici, piadine, degustazioni di prodotti tipici, vino e spritz. Le porte apriranno alle 19 per permettere anche a tutti gli affamati di poter ricaricare le batterie per la serata. Inoltre, molte associazioni culturali saranno presenti per condividere informazioni con il pubblico e le vibrazioni del festival. Infine, poiché è sabato e coloro che non amano andare a dormire presto potranno surfare, come si dice ormai in gergo, ad un after show segreto dopo i concerti, prezzo incluso nel biglietto. Il luogo della festa e del DJ saranno annunciati al festival, quindi sembra essere proprio una serata imperdibile. Bruxellando è tra i sostenitori dell'energia ovviamente creativa del festival, dell'iniziativa. Quindi vi aspettiamo sabato 19 ottobre 2013, quindi tra due settimane, al VK Concerts a Rue de l'École 76 a 1080 Bruxelles, porte aperte alle 19, biglietti disponibili su baitlive.com, 17 euro in prevendita, 20 alla porta. E potrete ritrovare maggiori informazioni anche su Facebook, e poi insomma potete ricercare facilmente informazioni sui gruppi che si esibiscono. Se invece volete proprio avere maggiori informazioni, allora vi consigliamo di contattare direttamente BEIT, baitlive.com, all'indirizzo info@baitlive.com, oppure contattare lo 0487 797867. Mi fermo qui e restate con noi, perché sentirete quello che ci ha raccontato Giuseppe Tornatore in occasione della sua presenza qui a Bruxelles. Capolavoro, la migliore offerta. Maestro, sicuramente la migliore un'assenza di tempo, me le ritrovo sempre lì. Quello per me diventa la testimonianza di una potenzialità effettiva e quindi di un'attrazione autentica, allora mi posso decidere anche a fare film. Questo nasce da una lunga incubazione, durata forse una tra le più lunghe della mia carriera. Non perché la storia fosse particolarmente ambiziosa e quindi non perché io perdessi tempo a decidermi a farlo, semplicemente perché la struttura della storia si è sedimentata e costruita nel tempo. E quando un bel giorno me la sono trovata già compiuta nel suo ingranaggio, così apparentemente semplice, perché il film apparentemente è semplicissimo, in realtà nasconde un ingranaggio molto molto complesso, che è appunto figlio di questa lunga elaborazione. E allora mi sono deciso a farlo. È apparentemente una semplicissima storia d'amore, che è però raccontata attraverso la tessitura narrativa tipica del film noir, del film giallo, anche se il mio film non ha assassini, assassinati, investigatori, non c'è niente di tutto questo. C'è però il divertimento del raccontare l'esperienza dell'innamoramento come se fosse un giallo. Ma questo è stato possibile perché nel processo di innamoramento ci sono gli stessi, come le stesse stazioni emotive di un giallo, gli stessi colpi di scena, le stesse esaltazioni, le stesse regressioni, gli stessi ribaltamenti, le stesse delusioni, le stesse sorprese, gli stessi insuccessi, le stesse esaltazioni. Ecco. Forse questo era l'aspetto, come dire, tra virgolette, originale di un film, che per il resto è un film di genere, una storia d'amore raccontata come se fosse un giallo, però con dei personaggi interessanti, e quindi è venuto fuori un film che poi ha goduto della simpatia del pubblico, perché ha avuto successo moltissimo in Italia, ma un po' dappertutto dove è uscito, e quindi diciamo un momento positivo del mio lavoro. È un modo positivo, aggiungerei. I due protagonisti principali sono molto simili. Uno restio all'amore, potremmo dire quasi allergico, almeno all'amore, quello dove si può toccare senza guanti, cosa che riuscirà a fare solo verso la fine. L'altro invece è afflitta da paure e fobie che le impediscono di vivere nella socialità e la socialità stessa. Più simili che opposti, eppure nel loro ingranaggio arrugginito scatta qualcosa per entrambi. L'amore trasforma? L'amore trasforma, questo non è una grande novità. L'amore sa realizzare miracoli che nient'altro e nessun altro saprebbe realizzare. Nel nostro caso il nostro protagonista è appunto un misantropo, un uomo non più giovane, che ha nei confronti della socialità un rapporto molto ossessivo, specialmente con le donne, non sa rapportarsi a loro, non ne sa neanche sostenere lo sguardo, infatti non le guarda mai, neanche quando deve interagire con loro, anche per motivi professionali. Un uomo che diffida degli altri, che non vuole neanche toccarli gli altri, non vuole neanche toccare gli oggetti che fanno parte della vita degli altri. Quindi un uomo che vive una vita fondata sull'assoluta diffidenza nei confronti del mondo e sulla totale invece accettazione dell'idea che la vita la si possa sostituire attraverso l'arte. Infatti lui le donne non le guarda nella vita, le guarda solo in questa collezione privata, segretissima, di ritratti di donne. Sono gli unici momenti in cui lui sa sostenere lo sguardo di una donna, quando è semplicemente un simulacro, un idolo. L'incontro con questa figura femminile misteriosissima, una ragazza che ha una fobia più grande della sua, cioè non ha il coraggio di uscire da una stanza e quindi con la quale riesce a parlare soltanto attraverso una porta, ribalta, mette in crisi l'equilibrio esistenziale di questo personaggio e lo porterà invece a scoprire che la vita ha bisogno dell'arte, ma non può essere vissuta solo sostituendola con l'arte, sublimandola con l'arte. Quindi alla fine della storia il nostro personaggio scoprirà che la vita la si vive con gli altri, rapportandosi con gli altri, vincendo talvolta certe battaglie o perdendo la maggior parte delle volte, ma interagendo, sporcandosi le mani. Ecco, questa è la grande lezione, ma soprattutto impara ad amare. Ecco, il nostro personaggio alla fine del film è quasi un altro rispetto a quello che era all'inizio, tanto respingente e repellente era all'inizio del film e tanto vicino e per certi versi simpatico diventa alla fine, perché diventa un personaggio molto simile a noi, a qualunque persona normale di questo mondo. Il film gioca anche su diversi parallelismi, sicuramente uno dei parallelismi più importanti, che diventa anche il fil rouge del film stesso, è la relazione che esiste tra il falso e l'originale. Ad un certo punto si dice pure nel film: in ogni falso c'è sempre qualcosa di autentico. Il più bravo dei falsari è tentato di lasciare una traccia in quell'opera originale. Potremmo sviluppare meglio questo concetto, perché a mio avviso è proprio la parte più interessante del film. Beh sì, è un po' la frase chiave del film, un po' la frase tormentone, che è anche la chiave per certi versi per interpretare quello che può apparire difficile da capire. In ogni falso si nasconde sempre qualcosa di autentico, lo dice proprio lui, il protagonista, che è un intenditore di falsi nella sua professione, anzi forse è uno dei più bravi al mondo. Con un solo colpo d'occhio sa distinguere un'opera autentica da un'opera rifatta, da un falso, da un'opera prodotto di impostura. Poi però questa straordinaria capacità che lui ha nella professione di distinguere il vero dal falso non ce l'ha nella vita privata. Ecco, lì non sa capire, non sa distinguere chi gli dice la verità da chi gli dice le bugie. Ma questo suo concetto, in ogni falso si nasconde sempre qualcosa di autentico, nasce da delle esperienze ovviamente reali. Ecco, i più grandi falsari della storia dell'arte, quando hanno realizzato i propri falsi, la maggior parte delle volte non hanno resistito a nascondere tracce di verità nel mare dell'impostura, perché l'impostura le rende invisibili, e quindi l'impostura come nascondiglio perfetto dell'autenticità. Questa è un po' la fascinazione ma è la chiave per capire l'aspetto più importante del film, che riguarda il rapporto tra lui e questa ragazza che dice di vivere questa sua ossessione di donna che non vuole vivere negli spazi in cui vivono gli altri, eccetera. Anche lì, nel rapporto tra lui e lei, alla fine la filosofia del in ogni falso si nasconde sempre qualcosa di autentico, che era in partenza una certezza nel nostro protagonista, alla fine diventa una speranza. E questo è un po' in accordo con la profonda trasformazione che il personaggio vive. Ciò che all'inizio sembra quasi un postulato, un assioma, diventa invece una speranza. Quindi forse non è più vero, ma lui stesso spera che sia vero ciò in cui credeva all'inizio. Molto curioso, anche adesso che lo ridico in parole diverse mi attrae, mi convince, ma il film nasce un po' da questo. C'è un altro elemento, siamo ancora nell'ambito dei parallelismi di cui parlavamo prima, proprio delle relazioni con le donne e con i quadri. In questo caso la storia è un po' capovolta, perché lui sente la protagonista ma non la vede. Quindi lui chiedevo, come è stato possibile per realizzare questo film quando i due protagonisti principali non si incontrano che alla fine, per tre quarti del film, tutto sommato, lui recita al telefono e lei recita dall'altro lato, recita da dietro una porta. Quindi sono proprio curiosa di sapere come sono state confezionate le scene del film, quanto è stato difficile poi mettere insieme questi diversi tasselli. E se poi l'arte della recitazione in questo caso ne risente della lontananza fisica dei due protagonisti? Beh, è stato uno degli aspetti, sì, per certi versi più difficili della realizzazione del film, ma anche più facile, nel senso che la soluzione che io ho seguito era quella più logica. Ho girato con i due attori esattamente nella stessa condizione dei due personaggi, cioè dietro la porta c'è sempre stata l'attrice che parlava con il nostro protagonista che non poteva vederla. È stato fatto tutto in modo realistico, anche le loro telefonate che sono numerose nel film. Insomma, non ho voluto ricorrere a tutti quegli escamotage ai quali spesso si ricorre nel cinema per evitare di costringere un attore o un'attrice al supplizio di prestare la voce in sequenze in cui non sono in scena. Ecco, la nostra bravissima Silvia Hux è stata tutto il tempo del film dietro la porta o dall'altra parte del capo del telefono, perché tutto doveva essere esattamente come era scritto e come doveva essere in scena. Da questo punto di vista poi è stato facilissimo, sarebbe stato molto più complicato chiedere a Jeffrey Rush di recitare sentendo le battute di lei lette dall'aiuto regista o dal regista, come succede spesso quando si gira una scena al telefono. Insomma, qua ho preteso invece che fosse tutto assolutamente realistico. I due erano entrambi presenti sulla scena? Assolutamente, e la scenografia è stata costruita in modo tale che la ragazza dietro la porta emettendo la voce così come lei era chiamata a farlo dalla sceneggiatura, dall'altra parte della borsa il protagonista potesse ascoltarla, e anche quando lei si muove non è necessariamente detto la borsa. Insomma, è tutto realistico, la scenografia è stata scelta, studiata e costruita perché tutto questo accadesse nel modo più realistico possibile. Non c'erano soluzioni secondo me più corrette e più rigorose di questa, e questa ho seguito. Insomma, ritornando ai due protagonisti, la visione che abbiamo però è solo quella di Virgil, il nostro protagonista, cioè questa visione dell'amore che è puramente maschile. Anche questa è stata una scelta legata strettamente alla trama? Se tornassi indietro cambierebbe qualcosa? Beh, è una delle scelte più difficili, forse, che forse la cosa più difficile di tutto il film. È stata una scelta di narrazione, di scrittura. Come dovevo raccontarla la storia? Da quale punto di vista? Doveva essere un punto di vista oggettivo, come si fa spesso in tantissimi film, che mi avrebbe dato il diritto di essere di volta in volta dalla parte di ciascuno dei personaggi, o dovevo ridurre l'orizzonte a una parte dei personaggi, se non addirittura uno solo dei personaggi. Io ho scelto la soluzione per certi versi più limitativa, che è quella di raccontare tutto dal punto di vista del protagonista e basta. Ed eccoci qui, cari amiche, cari amici. Manca qualche minuto all'intervista con Giuseppe Tornatore, che potrete ascoltare integralmente da domani, quando sarà disponibile sul nostro podcasting, che potrete facilmente ritrovare a www.radioalma.eu/brussellando. In particolare abbiamo chiesto a Giuseppe Tornatore che cosa fosse per lui l'arte del raccontare, quindi questa è la domanda con la quale abbiamo salutato Giuseppe Tornatore. Ne approfitto anche per ringraziare l'Istituto Italiano di Cultura e la direttrice Federica Bindi, la quale ci ha concesso la possibilità di poter raccogliere questo momento straordinario, questo momento di incontro e di dialogo con il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Il film The Best Offer sarà trasmesso nelle sale cinematografiche di Bruxelles e credo probabilmente in tutto il Belgio dal 7 novembre, quindi lunedì 7 novembre. Il film è stato girato in inglese, quindi lo ritroverete in inglese con i sottotitoli in francese. Questo ci porta alla conclusione della nostra prima puntata di Bruxellando, in realtà è un Aspettando Bruxellando. Martedì prossimo non ci siamo, ci ritroveremo il 22 ottobre, quindi martedì 22 ottobre, e saluto i nostri George, la nostra Fiordaliso, i quali saranno con noi proprio da martedì 22 ottobre. Ringrazio Dani M. Regia. Grazie a voi. E Maredì vi augura un'ottima settimana all'insegna della musica.